L'ESBIX ha come sottotitolo Capire il presente per immaginare il futuro, il punto tra inclusione e intersezionalità su una soggettività in divenire. È praticamente, diciamo così, una tre giorni che vuole proprio partire da questo per fare il punto sulla soggettività lesbica intesa in senso inclusivo e intersezionale, cioè a dire in tre giorni parleremo, analizzeremo, ci chiederemo e anche ascolteremo delle donne che abbiamo chiamato anche a parlare su queste tematiche con uno sguardo che occupi tutti i temi e tutte le parti della nostra vita. Quindi capiamo che in questo momento dirsi lesbica, fare politica lesbica femminista, significa proprio accettare questa cosa e parlare di tutti gli aspetti, includere, quindi la nostra è una storia più che ventennale, siamo un'associazione bolognese che è stato ed è ancora l'associazione più grande di lesbiche in Italia, e ci siamo però staccate dall'associazione nazionale che era Arcilesbica Nazionale, quindi da Arcilesbica Bologna siamo Lesbiche Bologna proprio perché vogliamo percorrere ancora la nostra storia in autonomia e essendo aperte, non avendo diciamo dei posizionamenti rigidi e escludenti rispetto a tante tematiche. Per questo motivo in questi tre giorni avremo il primo giorno l'apertura e anche un incontro, una tavola rotonda con tutta la rete cittadina, dei gruppi, dei collettivi, delle associazioni, del movimento LGBT, femminista, transfemminista, perché vogliamo riprendere in mano le fila del discorso, un discorso mai veramente interrotto, ma dove vogliamo in pratica mettere al centro dell'attenzione la potenzialità che Bologna ha nei suoi gruppi, nei suoi movimenti politici su questi temi, anche nella difesa della democrazia, in questo momento buio di oscurantismo, di violenza, in una parola di fascismo, e quindi questo è una cosa a cui teniamo molto. Il secondo giorno sarà proprio il giorno tutto completamente, diciamo, occupato dalle nostre relatrici. Le nostre relatrici parleranno della loro esperienza politica, di attiviste, di professioniste, di storiche, di pensatrici, di filosofe, di femministe, della loro esperienza che ce la restituiranno in termini politici. Quindi avremo da chi ci parlerà della condizione delle persone con disabilità, a chi ci racconterà proprio la storia del femminismo e del lesbismo. Avremo figure importanti come per esempio Liana Borghi, che è una delle storiche filosofe e politiche attiviste del lesbofemminismo italiano. Avremo Lidia Cirillo, che ugualmente è in politica ed è una lesbica femminista da almeno 60 anni. Avremo rappresentate anche tutte le generazioni, dalle ventenni alle ottantenni nelle nostre relatrici. E quindi ecco, questo è un pochino il quadro. La domenica sarà proprio la giornata dell'assemblea, quindi la mattina la divisione in gruppi per temi, il lavoro per gruppi, poi nel primo pomeriggio subito la restituzione del lavoro dei gruppi e l'assemblea plenaria. Vogliamo ricostituire anche, come dire, dei contatti, delle connessioni, una rete nazionale, delle lesbiche, delle bisessuali, delle trans, di chi si riconosce nelle soggettività lesbiche, delle persone non binarie, di chi non è trans escludente, di chi è aperto al movimento. Intersezionalità è stata una parola chiave di tutta la conferenza insieme a inclusivo, quindi volevamo capire un po' come questo sarà presente dentro l'ESBIX. Se per questo intendiamo parlare di chi ci parlerà di questi temi, per esempio nella giornata del sabato, possiamo dire per esempio che avremo, come dicevo prima, Francesca Talozzi, che è una lesbica femminista da sempre, che è attivista della Casa della Donna di Pisa e che attualmente ci parlerà proprio di un tema abilmente lesbica, perché lei stessa è da alcuni anni in sedia a rotelle. Poi parleremo anche della maternità lesbica e della politica attraverso Roberta Zangoli, che è un'attivista LGBTQI, è una femminista ed è anche una madre lesbica. Parleremo della transfobia attraverso Antonia Caruso, che è un'attivista transfemminista. Poi, come dicevo prima, avremo due grandi donne della storia della politica, dell'attivismo e della filosofia lesbica femminista, che sono Liana Borghi, che è una ricercatrice, una studiosa, e Lidia Cirillo, che è appunto una scrittrice, una studiosa anche lei. Avremo Maya De Leo, che è la prima che ha avuto una cattedra, attualmente insegna storia dell'omosessualità presso l'Università di Torino. E per esempio avremo anche un laboratorio, diciamo un centro di ricerca indipendente bolognese, che è il CRASI, dove con Nina Ferranti ci parleranno proprio della loro esperienza di intersezione tra attivismo e ricerca. E quindi in questo caso, nello specifico, entreremo nella tematica dell'archivistica dei saperi trans, femministi e queer, e quindi delle forme di organizzazioni sostenibili per la ricerca indipendente. Insomma, diciamo che a tutto tondo vogliamo attraversare tutti i temi che riguardano le nostre vite, i nostri corpi di lesbiche. Noi non siamo rappresentate da una sola cosa. Noi siamo lesbiche, ma possiamo essere bianche, possiamo essere nere, possiamo essere borghesi, ma possiamo essere anche precarie, possiamo essere persone con disabilità, possiamo essere persone non binarie, e insomma questa è l'intersezionalità. Possiamo essere migranti, possiamo venire da ovunque, e questa è l'intersezionalità. Il politico è personale, è stato ripetuto varie volte durante la conferenza, e tra poco sarà l'8 marzo, una giornata molto importante dal punto di vista sia politico sia appunto di unione delle lotte intersezionali, come è stato detto. Ci sarà posto anche per discutere dell'8 marzo dentro le SBIX, oppure ci saranno altre sedi? Certo che ci sarà spazio, perché comunque l'intersezionalità delle lotte significa anche essere dentro a questa lotta globale che è contro la violenza maschile sulle donne, contro la violenza di genere, in cui per esempio anche prima Arcilesbica Bologna, adesso Lesbiche Bologna, ha partecipato attivamente anche per esempio alla costruzione degli scioperi dell'8 marzo con Non Una di Meno. E per esempio noi di Lesbiche Bologna ci siamo sempre occupate soprattutto della violenza nelle relazioni, nello specifico nella violenza di genere, perché abbiamo un grande progetto, per noi molto importante, che va avanti già da quasi 3 anni, che è quello del lavoro sulla violenza nelle relazioni lesbiche, e quindi questa è una cosa importantissima sicuramente per noi. Parleremo sicuramente anche dello sciopero di quest'anno dell'8 marzo, e quindi anche della trasformazione, cosa che già nei fatti è avvenuta, della, diciamo così, transnazionalità delle lotte delle donne e delle persone che lottano appunto contro la violenza maschile sulle donne, contro la violenza di genere, che diventa una lotta contro praticamente l'eteronormatività e il patriarcato, cioè l'impostazione che è un'impostazione sociale, economica, fondamentalmente che coinvolge tutti i settori della nostra vita.